piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Tutti noi abbiamo sicuramente qualcosa che ci piace, cerchiamo di essere così. Cioè, io stesso sono l'emulazione fallita, che so, di Tom Wolfe, però non ce la farò mai a essere Tom Wolfe, capito? Quindi sono l'emulazione fallita di Tom Wolfe. Quante volte tu vai in discount, i supermercati discount sono stati un trionfo dell'emulazione fallita, che però va più successo dell'originale, perché se tu devi fare dei biscotti, la cosa più conveniente da fare è prendere la scatola e fare una busta gialla, giallo paglierino, con una scritta un po' sgogolata in cui appaia un mulino. E siccome la gente è distratta, sbaglia, tende a comprare qualcosa che assomiglia, non va a controllare esattamente se è quello. E io studiavo queste imitazioni, che ho chiamato, sbagliando, trash, perché poi invece il trash è diventato, Leone di Lernia, Lino Batte, quelle cose che poi non c'entravano neanche nulla. Ve lo ricordate? È la voce di Tommaso Labranca, uno degli intellettuali più singolari e secondo me più interessanti della scena italiana degli ultimi decenni. Labranca passerà alla storia, perlomeno alla vulgata superficiale, delle persone che hanno scritto, pensato e immaginato negli ultimi 30 anni nel nostro paese, per aver scritto un libretto, apparentemente un libro esiguo ma importantissimo, che uscì nel 1994, che a me entusiasmò subito. Andy Warhol era un coatto, vivere e capire il trash. Labranca riuscì a dare una connotazione di interesse culturale a ciò che normalmente si tiene nascosto sotto il tappeto. Le cose che vengono considerate sottocultura, le cose di cui ci si vergogna, le cose di cui non si va fieri rispetto al resto del mondo. Invece lui aveva trovato una sua particolarissima interpretazione, lettura estetica, che ce l'ha fatta amare, facciano parte di noi stessi. Non ci siamo più vergognati di ascoltare Oretta Berti o i Cugini di Campagna. Il trash per Labranca era semplicemente un passo che andava oltre le nostre possibilità. E la storia del nostro paese, senza piangerci addosso, è una storia fatta di molti passi che vanno oltre le nostre possibilità. Visto che l'analisi del trash, l'affascinante ricerca di stimoli culturali nei territori che meno sembrano percorso della cultura, è un esercizio che, grazie a Dio, ancora impegna molti intellettuali, è proprio recentemente uscito un altro libro che analizza in maniera molto capillare il fenomeno del trash, che è il libro di Gabriele Ferraresi, che è uno scrittore, un giornalista, Made in Italy, manuale del trash italiano dal 1980 al 2020, edito dal Saggiatore. Un parto smila. È volato via un orecchino a chi? A Bernardin? A un certo punto Renate stava volando fuori dalla nave, si è aggrappata e si è visto tutta sballonzolare la cosa. E senza soldi, senza passaporto. Per fortuna che avevamo l'indirizzo di questa signora gentile. Non lo so io perché è gentile, a Buzzicozza. Buzzicozza? Buzzicona Cozza. Ha fatto una crasi? La crasi? Mi può essere scappato, non mi sono accorto, ma è strano perché di solito fa nebulle. Gabriele Ferraresi. Io vedo però una grossa differenza. Tommaso Labranca si era concentrato, partendo proprio dal barocco brianzolo, da qualcosa che aveva sott'occhio nel suo angolo d'osservazione strapaesano. In generale, però, il tuo libro è un libro che abbraccia tutto lo scibile italiano nei decenni che vanno dal 1980, ecco, sei arrivato fino al Covid, quindi c'è di tutto dentro. Non è un considerarsi un po' trash nella nostra totalità? Allora, sì, il senso del libro è questo. Il libro parte ovviamente dalle intuizioni che ha avuto Labranca, ma che ha avuto addirittura ancora negli anni 90, per cui sembra incredibile, ma 30 anni fa le ha avute queste intuizioni. e sono le intuizioni che parlano di trash come di scarto che c'è tra intenzione e risultato finale. È il vorrei ma non posso, esatto, tradotto più o meno in termini un pochino più articolati, ma è quando uno vuole fare il passo oltre la sua gamba. Esatto, e diciamo tra questi due passi, mentre uno sposta la gamba, può manifestarsi l'emulazione fallita, che è, diciamo, la cifra del trash. E pesta una cacca, naturalmente, questo accade. E pesta una cacca, però insomma, ci deve essere qualcuno che se ne accorge, un po' come quella storia dell'albero che cade nella foresta e se non c'è nessuno a sentirlo è caduto davvero. E diciamo che la branca è stato incredibile nell'accorgersene, diciamo, di questo fenomeno. Per quel che riguarda... E lui vedeva la ricostruzione, questi ricchi, arricchiti brianzoli. E lui vedeva un paesaggio abbastanza omogeneo, dalla fanciullezza fino all'anno dell'osservazione. Rifacevano queste villette come se fossero dei castelli medievali, delle dimore nobiliari, con i leoncini, con dei sette nani nel giardino. E si rendeva conto che era una reinvenzione del barocco in chiave brianzola. Sì, quella è una delle sue, diciamo, delle sue teorizzazioni meravigliose che aveva davvero sotto gli occhi. Perché in un'intervista che gli avevo fatto ancora ai tempi della tesi di laurea, lui mi aveva parlato di un paese vicino a Varese, che si chiama Casciago, che lui riteneva la sua Combrè, come per Prussia, una cosa meravigliosa, dove ricordava di vedere le anziane che uscivano da messa con famiglia cristiana e dentro avvolto cronaca vera, ovviamente, per non farlo vedere. Per cui era tutto, diciamo, era dentro questo mondo, Tommaso, che è un mondo che io, ovviamente, avendo 20 anni di meno di lui, non ho potuto vivere. Io sono cresciuto negli anni 80, per cui era tutto un altro scenario. Ecco, tu parti proprio dall'analisi degli anni 80. Quanti anni avevi nei primi anni 80? Così capiamo. Ah, nel 1980 0, perché non ero ancora nato. Ah, ecco, sei giovanissimo. Insomma, ho 38 anni a settembre. Quindi diciamo il primo decennio che tu analizzi, non analizzi un po' per ricordo e più pallidi ricordi familiari, come io quando dico sono un ragazzo degli anni 50, in realtà sono del 54. Ho ricordi molto labili, però mi sembra di averli vissuti quegli anni, come te gli anni 80 forse. Certo, ma guarda che secondo me più ancora la nostra generazione, diciamo nati negli anni 80, rispetto alla vostra, fai, che è la generazione dei miei genitori in sostanza, siamo stati circondati rispetto a voi da una quantità di immagini, fai, semplicemente, pensa semplicemente alla televisione commerciale che voi non avevate, che... Ma non c'avevo manco la televisione, io sono nato nel 54, nasceva quell'anno la televisione. E poi c'era un anatema, le famiglie per bene ci pensavano prima di comprarla, perché era pieno di pregiudizi, magari l'andavano a vedere dal vicino, c'era molto pregiudizio, casa mia entrò tardissimo. Qual è il ricordo, diciamo, più legato alle categorie che hai analizzato, che poi sono interessanti, che però l'hai vissuto di persona, te lo ricordi sulla tua pelle, non raccontato? Così partiamo subito da un dato concreto. Guarda, io mi ricordo per esempio molto bene Drive-In su Italia 1, credo che... è tra i primi ricordi televisivi che ho, e avrò avuto quanto? 4 anni? 5 anni? Qualcosa del genere. Però non ne coglievi l'aspetto, il punctum di Drive-In erano le tette e i culi delle ragazze, quello era. Tu da bambino magari vedevi altre cose. Certo, interessavano tuo padre. Probabilmente sì, però se dovessi dire la tutta, non è che mi facesse così ridere, però è una cosa che come pasta di colore, come tipo di comicità... è una cosa che, bam, è lì. Cioè io davvero avrò avuto 4-5 anni fa, e poi mi ricordo i mondiali d'Italia 90, avevo 8 anni, insomma, ero già un po' più grandino. Lì mi ricordo benissimo le grafiche in sovraimpressione, gli stadi, le cerimonie, e poi soprattutto credo che in tanti di noi si ricordano le pubblicità, quello è stato il genere. Però vedi che nel tuo imprinting da bambino hai colto quello che in realtà la TV commerciale voleva. Nel grigiore piatto e da sacrestia della televisione pubblica, anche se riformata, anche se Rai 2 ha avuto dei momenti importanti, Rai 3 ci ha anche provato a essere una televisione diversa, sperimentale, comunque c'era una sorta di costante di grigiore. La TV commerciale colpiva per il cambio continuo di inquadratura, il rumore, il jingle, e un bambino l'ha colpito. Però mi viene a pensare, tu hai aperto il libro con una frase atroce, piena di supponenza e piena di puzza sotto al naso, diciamoci la verità. Quando Pasolini in un'intervista ad Arbasino nel 63 dice: cosa mi sembra l'Italia? Un tugurio in cui i proprietari sono riusciti a comprarsi la televisione. C'è un moralismo bieco, devo dire, con tanto rispetto per la buonanima di Pasolini. È vero, quella frase che hai citato, Pasolini la dice Arbasino però nel 1963. Nel 63 tu c'eri, probabilmente hai dei ricordi. E terza elementare, per me la terza elementare, terza ricordo elementare, benissimo. Ecco. E l'Italia, rispetto a un'altra Italia, che è quella di cui Pasolini poi lamenterà la sparizione, e la lamenterà però 10 anni dopo Pasolini. Nel 63 l'Italia è ancora davvero un'Italia da quasi primo dopoguerra, almeno da quello che ci raccontano gli storici. Beh, ti dico un episodio. Nelle mie classi elementari degli anni 60, nel 63, ancora c'erano quei manifesti, ci ho riflettuto a lungo, che venivano messi con dei bambini con le gambe zompate, con le braccia mutilate, pieni di schizzi di sangue, che noi andavamo a giocare nei campi, trovavamo ancora dei residuati bellici e il gioco era smontare i proiettili o prendere la cordita e farci botti per conto nostro. Ogni tanto qualcuno gli saltava alle mani. E quindi c'erano ancora questi manifesti con i bambini che scoppiavano con le bombe, con tutto il disegno delle bombe a mano, tedesche, inglesi, alleate, fasciste, di tutti i tipi. E i bambini erano dei manifesti che dovevano terrorizzarti. Quindi tutti senza schizzati via, camminavano con le stampelle, ciechi. Quindi tutto sommato, gli anni 60, avevamo ancora l'odore della guerra nelle narici. Bravissimo. Esatto, e fai che questo odore di cordite che ricordi anche tu, secondo me c'è un vento che lo porta via poi negli anni 70. Gli anni 70 sono un altro periodo. Infatti è negli anni 70 che Pasolini lamenta, diciamo, quella sparizione di quella famosa civiltà indifferente che nemmeno il fascismo era riuscito a intaccare e così via. Perché effettivamente c'è qualcosa che la sta facendo svaporare o cambiare. E poi, diciamo, quella è la rampa di lancio che poi dagli anni 70 ci porta agli anni 80, che secondo me sono davvero il periodo in cui... Ecco, tu gli anni 80 li segni però con un episodio che è inconsueto citarlo come episodio fondamentale rappresentativo, ma ti do pienamente ragione perché fa parte ancora dei miei Vangeli che ripercorro quotidianamente. Il Fantozzi contro tutti, cioè che è il terzo film, mi sembra, di Fantozzi, che ancora sono quelli che ancora aveva scritto Paolo Villaggio insieme a Costanzo, insieme ai suoi autori, poi dopo diventò manierismo. Ecco, perché Fantozzi nel tuo libro segna così profondamente una rappresentazione del trash italiano, in cosa in particolare? Beh, allora, Fantozzi è importantissimo per un sacco di motivi che tanti hanno spiegato. E perché è importante Fantozzi contro tutti? Perché Fantozzi contro tutti va anche al cinema, per mettere qualche puntino, tipo a 3 mesi dalla strage di Bologna. Sono cose che ci sembrano lontanissime, pensare che a queste due cose, però è davvero così. Gli italiani subiscono l'attentato più grave sul territorio dal dopoguerra e poi 3 mesi dopo il cinema c'è Fantozzi. Quindi da agosto all'autunno esce Fantozzi contro tutti. Esatto, che è strano davvero da ricordare. Perché poi è importante Fantozzi contro tutti? Perché c'è dentro un personaggio che è il fornaio cecco, ovvero Diego Abatantuono. Quello signore dove glielo metto lo sfilatino, un classico. Esatto, bravissimo. Qua che è un personaggio molto arcaico, nell'umbra arcaica che ho conosciuto, il doppio senso faceva principe, ancora ai matrimoni si portava la zucchina con i pomodori dietro per la sposa, coperta al piatto della sposa, quindi ogni fornaio a ogni signora che veniva gli faceva il doppio senso, dove vuole la baguette, qual è lo sfilatino, oggi c'è un filone tutto per lei, quindi era un attingere in un immaginario quasi agreste però. Pensa adesso che casino che verrebbe fuori su Twitter con una roba del genere, si scatenerebbero tutti, ci sarebbe un casino terribile. Ma figura, si trova i carabinieri sotto casa se un fornaio prova a far doppi sensi sullo sfilatino, figurati. Però Abatantuono, dicevi, che è un personaggio che ricorre per te, è un personaggio chiave di un passaggio comunque. Ma certo, perché Abatantuono in primis è un comico che si afferma passando anche da questo, diciamo, dal personaggio del Terruncello, ok? In eccezionale veramente. Certo, che è stato una specie di cartina tornasole, ha fatto vedere allo specchio tanti italiani, anche diciamo nelle loro caratteristiche, meno gradevoli, diciamo, o che, diciamo, di cui hanno cominciato un pochino a vergognarsi. Cioè era il meridionale, perché i più giovani non se lo ricordo, il meridionale esportato nel nord Italia, che fingeva di essere milanese al 100%, quando in realtà era quattissimo, non che non lo siano, non siano anche i milanesi, che però rappresentava l'esagerazione di quelle mode orrende di quegli anni, con le giacche, con le spalle imbottite. Con la coda di volpe, le spalle imbottite, tutte queste cose tremende. Il paradosso molto bello è che questa cosa però sia funzionato con una certa parte di italiani, ha reso poi a Abatantuono, alla fine se ci pensi, oggi un emblema della milanesità, perché è quello oggi a Abatantuono. Eh sì, però aspetta, c'è stata una catarsi come in tanti altri, certo. c'è stato un rinnegare tutto dal film di Puppi Avati. Certo, dal Regalo di Natale in poi. Diventa Regalo di Natale, diventa un attore impegnato, guai a ricordargli che è stato un comico, un attore tragico, impegnato, riflessivo, importante. Adesso è ritornato un attimo la necessità comunque di riapparire, appare in qualche talk, in qualche giuria di programma televisivo. Per un periodo è stato intoccabile, era uno dei volti tragici e importanti del nostro cinema. E che gli è riuscita una cosa che invece non è riuscita Jerry Calà, che è un altro, secondo me, una maschera che è perfetta per il decennio, che anche Jerry Calà, se ci pensi, ha provato un percorso d'attore serio, con delle enormi virgolette, non perché non fosse serio quando faceva Sapore di mare, però voleva lui stesso impegnarsi a fare dei ruoli, diciamo, con dei registi non tipicamente comici o da commedia, che però non c'è riuscito Calà, forse è andata meglio così. Ecco, a questo punto però ci dobbiamo fermare soltanto un istante, riprendiamo con Gabriele Ferraresi e la sua analisi del trash degli ultimi decenni, dal 1980 in poi, tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Melog. Tutto tocchi anche un fatto che fu importantissimo, che rientra sempre comunque nel nostro trash italiano, se vogliamo considerare il nostro voler giocare anche su quelli che sono i nostri mali endemici e trasformarli in epica. Il commissario Cattani, tu lo avevi 7-8 anni quando c'era il commissario Cattani, più o meno? Più o meno sì, ricordo. Tu lo vedevi la piovra? Ma certo, i miei genitori, come milioni di altre famiglie, credo che mia madre abbia anche pianto quando lo hanno ammazzato, quel massacro finale, lo riempono di mitragliate, cioè non moriva mai alla fine questo commissario Cattani, perché doveva essere anche l'uscita di Placido da un ruolo che gli pesava molto. Però la piova ebbe di differenza rispetto al, faccio un salto epocale, a poi a Romanzo Criminale, a Gomorra, in tutte le nostre celebrazioni mafiose o paramafiose che ci hanno dato la gloria, la piova fu stigmatizzato pubblicamente, Andreotti disse pubblicamente non andava trasmesso, ci fu un movimento di pensiero che diceva non dovevamo dare questa immagine dell'Italia. Questo un po' cozza con tutto quello che abbiamo detto fino adesso, però. Allora, cozza un po', però se ci pensi sono accadute delle cose analoghe anche con Saviano e con Gomorra. Certo. E questo secondo me è anche un indice di, diciamo, un certo tipo di sentimento, di orgoglio patrio, di, insomma, noi possiamo parlare male di noi, però non va bene se ci vediamo, facciamo vedere, insomma, i panni sporchi si lavano in famiglia, diciamo. Poi fu un grande successo, Rose l'anima, che il nostro successo era sulla mafia e non magari, che ne so, sulle storie dei papi o dei santi che andavano tanto. Anche questo è vero. Fu quello, capito? Dovevamo passare alla storia per santi, eroi, navigatori, e siamo passati alla fine per storie di mafia. In realtà il vero eroe della piova era Tano Cariddi. Remo Girone ci mise anni per togliersi questa onta di dosso. Lo fermavano per strada, lo insultavano perché era il cattivo, che poi era un cattivo molto moderno, se ci pensi bene. È vero, no, è vero. Beh, Remo Girone è stato anche lì un attore. Oggi ce lo ricordiamo noi principalmente, però è stato davvero un grande attore, un grande cattivo molto moderno, come giustamente ricordi. Era iperinformatico, già aveva le reti telematiche, era la nuova mafia dei colletti bianchi. Senti una cosa, adesso entro nell'intimo della tua formazione. Il catalogo Postal Market l'hai mai avuto per le mani te? Certamente, perché lo riceveva mia nonna presso cui. Quanti anni avevi? Che qua stiamo parlando del 91-92, avrò avuto circa 10 anni fa. Quindi eri nell'età proprio che ne facevi un uso improprio. Allora, guarda, sì e no, ti dirò perché, anche qui, vabbè, a questo punto diciamola tutta la verità. Raccontalo te, va, che ho scritto anche troppo sul catalogo Postal Market. Diciamo, era l'equivalente di YouPorn degli anni, cosa eravamo, a metà fra gli anni, primi anni 90 siamo già, no? Ma allora, io ho avuto l'incredibile fortuna di avere mio padre che ai tempi faceva lo sceneggiatore anche di fumetti porno, non solo di fumetti porno, ma anche... Ah, i famosi zozzi, quelli, il montatore, Lando, quelle cose lì. Allora, quelle cose lì per la Paninaro e di fumetto, che adesso non... Certo, erano quelli, erano quelli, sì. Esatto, ok. E mio padre faceva lo sceneggiatore quella lì. Beh, non c'era da scrivere tanto, sdreng, suk suk, fic fic, sdan, ah, stang, era così. Guarda, no, c'è un aneddoto meraviglioso. In pratica l'editore, il signor Paninaro di fumetto, era questo tale Barbieri, che è il fratello di Barbieri, il fotografo di moda eccezionale. E il Barbieri editore diceva a mio padre, metti almeno 3 scopate a sceneggiatura. Questo era l'unico suo diktat, poi per il resto ruota libera. Tu pensa quanta ingenuità c'era in quei fumetti? Che poi molti hanno la faccia di attori famosi, di cantanti, c'era Celentano, Gianni Morandi, tutto c'era a quel periodo. Lando Buzzanca faceva il camionista, ti ricordi? Sì, ma questo è il bello della fantasia e del fumetto. Il catalogo Postal Market, diciamo, aveva una sezione che era biancheria intima femminile, che erano delle signore anche abbastanza, diciamo, al di fuori dei canoni della seduzione classica, che però posavano in reggi calze, mutande, panciere contenitive. E siccome il catalogo del Postal Market entrava in tutte le famiglie lecitamente e molto spesso veniva lasciato sopra il cesto della biancheria per la lavatrice, era diciamo una tentazione a portata di mano per l'educazione sessuale degli adolescenti, che avevano quei fantasmi di eccitazione a portata di mano che erano il catalogo Postal Market. Tu lo citi giustamente come l'antesignano di Amazon, ma nella famiglia entrò e permase, rimase proprio per questo. Guarda, e se posso, guarda, una cosa che non ho messo nel libro, ma che secondo me è stata fondamentale per molti, erano le copertine dell'Espresso di Panorama dei tempi, che erano, non so, crisi della lira, svalutazione e donna nuda, diciamo senza alcun motivo se non vendere decine di migliaia di copie in più del giornale. È vero, ci fu un periodo che i due settimanali, che avevano una centralità rispetto a quello che hanno oggi, che è incredibile, nessuno poteva pensarlo. Vero. Però avevano le copertine sempre con le donne discinte, è vero. Non si capiva perché non si capiva perché, cioè si capiva benissimo, ma non c'era ancora, diciamo, questo tipo di attenzione. Arriviamo già al 2000, in cui tu sei già grandicello e cominci a notare il mondo. Diciamo, ci siamo lasciati dietro le spalle quel periodo, tutto sommato, a una sorta di puerile indecenza che ci fa quasi sorridere. Entriamo in momenti un po' più tosti. Tu citi l'episodio stranoto, per rimanere nel campo della pubblica sconcezza, della famosa cacciata Luttazzi, Santoro e l'altro Biagi. E Biagi, di cui però Luttazzi fu quello più divertente, che fu cacciato che faceva le cose veramente sconce. Tu queste cose te le ricordi? A me facciano ridere a quel tempo, oggi sarebbero anche, ma improponibili oggi nella TV italiana potresti vedere uno che mangia la Nutella facendo finta che è cacca. Che sia cacca, no, probabilmente no, ma perché è cambiato una cosa molto importante, nel senso che il pubblico, fai di buona parte della TV generalista, è invecchiato. Ci fermiamo ancora un istante e riprendiamo poi con Gabriele Ferraresi e la sua storia del trash italiano dal 1980 fino ad oggi. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe. Un unico partner, mille risorse. Epilog. La televisione non è cambiata molto, diciamo, nel suo schema generale. La TV pubblica più o meno, c'è sempre questa idea che ci sia un bambino davanti, che non bisogna scuotere, non bisogna irritare, non bisogna fargli vedere troppe cose. L'idea è sempre questa. È vero, però lì era stato un periodo abbastanza particolare, perché c'era, non so, mi pare Freccero a Rai 2, che però era, diciamo, un altro Freccero rispetto a quello più recente di questi anni. Luttazzi era, diciamo, un quasi perfetto sconosciuto, aveva fatto Barracuda su Italia 1 e su Rai 2 porta un modello di, diciamo, late night show all'americana, chiaramente ispirato a Letterman, e un bel momento ospita questo sconosciuto giornalista della redazione torinese di Repubblica, che è Marco Travaglio. Marco Travaglio ha in uscita un libro con Elio Vedri, si intitola L'odore dei soldi, in cui si accenna alle, diciamo, opache origini delle fortune di Silvio Berlusconi. Tu ti ricorderai, fu come gettare un cerino. Ma io mi ricordo quella scena come se la vedessi adesso. A quel periodo parlavo anche di televisione e mi sembra assurdo che sono passati vent'anni. Assurdo, vent'anni che sono volati. Naturalmente allora ebbe un po' di scalpore, poi Berlusconi venne il capo di tutto e naturalmente la prima cosa che fece segò le persone che avevano fatto questa onta. Gli altri sono stati tutti più o meno riabilitati. Santoro è tornato addirittura a lavorare poi anche nelle reti Mediaset, capito? Sì. Biagi è stato riabilitato, ma per pochissimo, poi è tornato in onda, mi pare, nel 2007. Poi è stata la sua gloria, è stata la sua massima gloria, diciamo, quella di essere stato cacciato da Berlusconi. E Luttazzi invece no, non ha fatto più. Si scrive ogni tanto sul Fatto Quotidiano. Ma allora sì, adesso è tornato un po' sul Fatto. Dopo lì la cacciata, dopo il famoso... Ma è stato veramente asfaltato. Strana questa cosa. Sì. Il nostro non è un paese che asfalta. C'è sempre stato spazio per tutti. Ma allora, te lo spieghi? Sì, me lo spiego un po' con il carattere, fai, di Luttazzi, che deve essere probabilmente un po', insomma, molto intransigente, diciamo, un poco... poco volonteroso a smussare gli spigoli. Si è arroccato, diciamo, nella condizione di esule e è rimasto. Sì, poi la condizione di esule, per quanto scomoda, può anche in realtà tornare utile delle volte, non è che per forza, insomma, non siamo ai tempi di Dante, per cui l'esilio può anche essere un esilio tutto sommato, se non dorato, almeno in silver plate, diciamo. Che fece due o tre azioni che si sovrapporranno per sempre rispetto a tutta la sua produzione: l'annusata delle mutande di Anna Falchi, appunto il pasteggiare con la cioccolata squagliata e bersi il bicchiere di liquido rossastro allusivo al flusso femminile. E, oltre a queste tre cose, se lo sono mangiato in tutto, che sono poi è l'apoteosi, se vogliamo, del trash inteso come cattivo gusto nella lettura da signora di buona famiglia, ecco. Verissimo, sì, lui lo faceva deliberatamente, sai che il dolcetto dalla forma inequivocabile di deiezione era per rispondere ad Alberto Contri, che era ai tempi, Alberto Contri fu un grande guru della pubblicità italiana, ai tempi consigliere Rai, che aveva detto: da questa trasmissione manca solo la coprofagia, ed ecco servito quindi un vassoietto con un dolcetto dalla classica e inconfondibile forma. Però era anche un periodo che c'era una grande libertà nella televisione, perché tutto sommato, a parte il diktat bulgaro che venne dopo, al momento non accadde nulla. No, continuò a farlo. Non è che la Rai prese posizione, lo cacciò, dovette cambiare la politica perché cambiassero queste persone. Poi lui fu quello che fece più le spese degli altri, ma quello che rispetto alla cosa potente che aveva fatto Biagi, aveva chiamato Benigni la sera prima delle elezioni, che ha fatto uno sketch divertente ma totalmente politico. Santoro è andato avanti a testa bassa come se nulla fosse. In realtà lui aveva fatto un gesto, sì, di leggerezza, perché c'entrava poco Travaglio in una trasmissione di sconcezze. Ci ha provato, ma alla fine è andato nella coda lunga, infatti è quello che è rimasto fuori. Arriviamo un po' nei tempi più prossimi. Tu ti fermi con le ultime cose che alla fine, rispetto alle meraviglie di cui abbiamo accennato, sembrano piuttosto transeunti, destinate a scomparire. Diciamo, il Covid-19 ha stroncato definitivamente questo filone che sembrava interminabile del misterioso fidanzato di Pamela Prati, ma il bello è accaduto dopo, molto, molto più bello l'eterno riposo della D'Urso insieme a Salvini, molto più bello quello che è accaduto, il lavaggio delle mani, fetish totale, questo lavarsi delle mani che la gente faceva discorsi impronunciabili e inimmaginabili, poi fatto anche con una vernice rossa che sembrò blu, non mi ricordo bene. Cioè, appena commesso un omicidio. È lì per fetish, capito? Una cosa, è possibile fare una previsione? È un genere che rimane, quello del trash, nella codifica di persone appassionate come te che rivedono la storia e puntualmente la raccontano mettendo in evidenza quelli che sono i punti che la storiografia generale tende a nascondere. O viviamo in un momento in cui trash è cresciuto a livello di simbolo nazionale, cioè oggi guardiamo i profili Twitter di una gran parte dei politici italiani, ma potresti scriverci un'enciclopedia, no? Un libro per decenni. Che cosa è cambiato e come cambierà tutto, diciamo, il trash che ci circonda? Diciamo che quest'anno, nel 2020, con insomma, quello che tutti abbiamo vissuto, i mesi chiusi in casa e una pandemia che ha fatto decine di migliaia di morti, è come se avessimo chiuso un po' in un cassetto tutte queste cose, però con dei momenti in cui questo cassetto si riapriva violentemente, per esempio come dicevi con l'eterno riposo di Barbara D'Urso e Salvini, che è stato un momento incredibile. E adesso secondo me ci stiamo lentamente risvegliando, la famosa normalità di cui dicevamo, anche quella del trash televisivo, della TV del pomeriggio, diamoci qualche mese, tornerà tutto, secondo me, esattamente come prima. Il problema, sai, ed è un problema a cui accenno in qualche pezzo del libro, che c'è un concorrente fortissimo, che in realtà non è un concorrente, è un'alternativa, che sono i social media, che è Instagram. Apri Instagram e ti trovi Pier Ferdinando Casini con la faccia da donna cambiata con FaceApp, che può essere divertente. Sì, però, che roba di questi ultimi giorni, cioè è un'app sì, di cui si parla da qualche anno. Non so perché questi ultimi giorni tutti hanno trovato in questa app quello che trasforma da uomo a donna o viceversa, ma è una cosa che veramente esiste da mesi, anni, esatto. da anni. Perché l'ha fatto uno, adesso tutti fanno vedere le signore con la barba quanto sono carine, i signori strizzando l'occhio alla loro imperitura virilità si fanno vedere con i capelli lunghi e con il trucco in faccia. Per cui diciamo c'è questa, diciamo, questa enorme alternativa, questo anche qua il famoso doppio schermo, che è quello dello smartphone, del tablet che usiamo mentre magari guardiamo la TV o ascoltiamo la radio, che diciamo sono sempre più pieni, diciamo sono abbassate sempre di più, le difese e anche il senso di vergogna, diciamo. La timidezza e una certa ritrosia che invece una volta erano caratteristiche, caratteriali abbastanza comuni, sono completamente sparite. Questo, cioè, non è per fare del moralismo. Sì, ma non trovi però quando in questo caso stiamo dicendo praticamente che il trash come categoria estetica, con una sua dignità e una sua articolazione da studiare, su cui poter parlare, quando diventa manierismo, già ormai non appartiene più, no, non c'è più nulla di eroico. Vanna Marchi non esisterà mai più, Funari non esisterà mai più. Cito delle persone che tu hai citato come delle pietre miliari in questo racconto. Quello che c'è adesso più o meno è una sorta di gioco di specchi riflettenti. La D'Urso forse rimane, ma a livello diverso, perché ha una doppia lettura. C'è chi la piglia sul serio, rappresenta tutto sommato. Quando va un politico a parlare da Barbara D'Urso, in quel momento, se tu lo estrapoli, esattamente come fosse nel salotto di Vespa, non cambia più niente. Non c'è più quell'alone di uscita dal mondo che era proprio di quando andavano da Funari che gli infilava in bocca la mortadella. È un'altra cosa. È così perché, diciamo, tutto quello che ci circonda si è trashizzato, diciamo che si è abbassata l'asticella collettivamente e quindi diventa molto più difficile trovare dei fenomeni incredibili e spontanei, però, come potevano essere, che so, Funari, Vanna Marchi, Stefania Nobile o il leggendario maestro Don Asciniento. Sono delle cose irripetibili. Sono delle cose irripetibili che però, secondo me, adesso, più ancora che sulle TV locali, troviamo su YouTube. Secondo me YouTube ha drenato una serie di talenti incredibili che 20 anni fa avrebbero cercato uno sbocco sulle TV locali, sicuramente. Adesso si fanno la TV locale in streaming dalla propria stanzetta. Ti ringrazio per questa veloce, purtroppo non esaustiva, analisi. Ricordo che chi volesse vedere capillarmente il trash analizzato anno dopo anno, nei decenni che vanno dal 1980 al 2020, ricordo Made in Italy, Mad in quanto matto, non in quanto nato in Italia, il manuale del trash italiano, editore Il Saggiatore. Grazie Gabriele Ferraresi, alla prossima. Grazie a te e agli ascoltatori, a presto.